perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Allora, per fare la classica introduzione sessista, questo argomento, quello che affrontiamo oggi, è un tema all'interno del quale io non interverrò praticamente mai, perché tipicamente una donna di macchina non si intende. Ma cara Deborah, ma tu sei la benvenuta e poi superiamo questi steccati. Ci sono oramai normalmente delle donne che, mi immagino, non solo guidano, non solo capiscono di meccanica, di motore e così via, ma soprattutto si occupano, saprebbero benissimo sostituire uno pneumatico. Sì. Perché oggi parliamo degli pneumatici. Ribadisci con forza l'articolo. Sì, perché ci tengo parecchio a questa cosa. Perché sai, allora, che scateneremo un dibattito che non finisce assolutamente più. Assolutamente, anzi già invitiamo, facciamo un sondaggio tra i nostri ascoltatori. Togliamoci subito sto problema di torno, così siamo contenti. Chiediamogli, ma secondo voi dobbiamo dire gli pneumatici o i pneumatici? Perché, vabbè, poi vi dico, comunque i numeri sono quelli soliti, ma non per rispondere, non solo per rispondere a questo nostro sondaggio, ma anche per parlare del tema di oggi, che è proprio legato Il famoso cambio stagionale, chiamiamolo invernali. Così. Da oggi scatta per legge proprio l'obbligo del montaggio degli pneumatici invernali. Infatti, e quindi io chiederò ai nostri ospiti: posso mettere il rimmel mentre guido? Guardandomi allo specchietto retrovisore. Guarda, non ci crede nessuno, Deborah, che tu abbia questo atteggiamento nei confronti del mezzo automobilistico. Vabbè, facciamo per ridere un po'. I numeri sono naturalmente quelli soliti. Con tutti soliti, i chilometri che faccio. Tra l'altro non sottovalutiamo questo obbligo, né naturalmente per motivi di sicurezza la cura che dobbiamo avere degli pneumatici, perché sappiamo che sono determinanti, specialmente quando si è nella stagione peggiore per la condizione delle strade. E peraltro, Mauro, ci siamo, come dire, bellamente beati per tutto il mese di ottobre, poi abbiamo tirato fuori da un giorno all'altro gli stivali, il piumino, e abbiamo realizzato improvvisamente di essere precipitati nel mese di novembre con tutte le incombenze, no? La seconda rata della conto IRPEF mi ero scritta, l'accensione dei riscaldamenti e quindi il cambio degli pneumatici. Poi lo spiego però questa cosa, perché mi sono anche informato sulla tua laurea in lettere, anche la mia laurea in lettere. Allora, la norma grammaticale ce la vuoi spiegare subito? No, vuole gli pneumatici. Benissimo. Però ma lo dico dopo. Allora, attenzione dunque a questa scadenza, alla data di oggi, perché tra l'altro, siccome sta già cominciando a nevicare in un sacco di località, è bene guidare con prudenza e soprattutto attrezzati con le gomme giuste, direi. Esatto. Allora, con chi ne parliamo di tutto questo stamattina? Intanto con Fabio Bertolotti, che torna a trovarci, direttore di Assogomma. Ben ritrovato, buongiorno, grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Che già in passato veniva a trovarci molto spesso con Nicoletta Carbone, e lo abbiamo più volte ribattezzato l'uomo di tutte le stagioni, l'uomo per tutte le stagioni. Ma lui lo cambiavate quando poi la vestivano semplicemente. Immagino, possono vederla i nostri ascoltatori sulla pagina Facebook. Adesso lui è già, come vedete, in tenuta invernale. Si riconosce anche dalla scolpitura della giacca, no? Dico delle stupidaggini. Ma per introdurre invece il nostro secondo ospite, Maurizio Caprino, un'altra voce e volto naturalmente noto. Ha già aperto la sua Bibbia davanti agli occhi, perché così documentatissimo, informatissimo, non lo cogliamo proprio in fallo mai. Non credo che sia una grammatica, mi sembra più un codice della strada, quindi non si stava ponendo questioni grammaticali su pneumatico, la parola pneumatico, ma invece le questioni più importanti, quelle normative. Benissimo, per tutte le vostre domande sull'argomento, e vedo che oltre all'articolo vi state già scatenando su aspetti tecnici rispetto alla data di oggi, continuate a scriverci alle 349 238 6666. Noi riceviamo i vostri sms, quindi i vostri messaggi tradizionali, ma anche i vostri whatsapp, oppure chiamateci all'800 24 00 24. Gomme a posto, partiamo. Anteriore destra, come voleva si dimostrare, porco giudascio infame. Vabbè, adesso comunque, senza farci prendere dallo sconforto, vediamo immediatamente di individuare dov'è la colonnina di emergenza più vicina. Ma cosa c'entra la colonnina, Furio? Ma per il servizio di soccorso ASCI? Ma desveglia di tesoro! Ma Furio, per una gomma? Magda. Esatto, molte Magde ci stanno scrivendo, vedo già molte signore che sono attentissime sull'aspetto economico di questo passaggio. Un'ascoltatrice, chiedo scusa, ci ha scritto subito Elisa che dice: io purtroppo l'appuntamento col gommista ce l'ho al 18. Dice purtroppo? Siccome mi devo spostare, devo fare 250 km, che sanzione rischio, caro Maurizio, senza spaventare troppo l'ascoltatre. Ricordiamo vestiti che ci sono da vigile urbano. E... Allora, intanto c'è una puntualizzazione, nel senso che dipende da dove li fa questi 200 km. Se si sposta, verosimilmente beccherà l'obbligo noi adesso l'abbiamo dato generico, però in realtà vige soltanto su alcuni tratti, a volte anche molto lunghi. Per esempio, sull'autostrada del Sole andiamo al nord, andiamo da Piacenza fino ad Arezzo. Però ciò non toglie che ci siano anche tante altre strade dove questo obbligo non vige affatto. Al limite può essere imposto temporaneamente se nevica anche sulle altre strade, quindi la situazione è piuttosto variegata. In ogni caso fanno fede i segnali e se proprio la nostra ascoltatrice avesse necessità di muoversi su un tratto dove l'obbligo è imposto, sono 85 euro. Va anche però detto che la multa si può evitare anche tenendo un paio di catene sempre nel bagagliaio, ovviamente della misura adatta, e soprattutto quando serve montarle essere allenati, preparati a farlo, cosa che spesso non è facilissima, e soprattutto farla in maniera diversa da quella che voleva fare il nostro furio Carlo Verdone nel brano che abbiamo sentito, nel senso che purtroppo molto spesso c'è gente che cambia gomme oppure monta catene in posti inopportuni, tipo in corsia d'emergenza in autostrada, e ora lì poi ci sono anche incidenti che spesso sono mortali, diciamolo, sono mortali. Quindi se dovete montare catene, sempre ben appartati, quindi come minimo in piazzola di sosta, ripeto come minimo, l'ideale è in area di servizio o area di parcheggio. E allora, detto tutto questo, Fabio Bertolotti, chi è auspicabile che da oggi inizi a pensare di fare il passaggio di gomme? Innanzitutto mi permetto semplicemente di dire, a proposito di catene, che ovviamente vanno montate quando c'è la neve al suolo, perché altrimenti è del tutto inopportuno. Siamo addirittura a questo livello, dobbiamo dire, sull'asse trattivo, così finisce. Abbiamo visto di ogni. Se la macchina è una trazione anteriore, l'asse trattivo. Se la macchina è una trazione anteriore, non montate le catene sulle ruote posteriori. Questo l'abbiamo fotografato in diverse circostanze. Anche voi avete il vostro bestiario, quindi. Sì, quindi assolutamente. Comunque, i pneumatici, allora, le ordinanze, come correttamente si diceva, riguardano molte aree, molte zone del nostro paese, più della metà delle province d'Italia ormai ha, diciamo, perché ordinanze. È una disposizione dell'amministrazione provinciale, giusto? No. È la disposizione che riguarda i proprietari o i gestori delle strade, sono le province, che sono le regioni, che possono essere i comuni, le autostrade, l'ANAS, e chi più ne ha più ne metta. Quindi il mondo è molto molto ampio. Dopodiché la maggior parte delle aree italiane è coperta da ordinanze, quindi chi si mette in viaggio da Milano per arrivare al sud è sicuro che troverà nel corso del suo tragitto tutta una serie di tratti che sono coperti, quindi deve montare pneumatici invernali o avere delle catene al seguito pronte per essere montate se nevica. Questo deve avvenire quindi l'obbligo vige dal 15 di novembre al 15 di aprile. Poi c'è anche la possibilità di montarle anticipatamente, col fatto che la radioascoltatrice diceva: io ho l'appuntamento il 18, perché più o meno tutti, ma non è una colpa, ma è un fatto, diciamo, logico e normale, guardiamo fuori dalla nostra finestra, ci sono 20 gradi, e quindi uno non pensa. Poi il giorno dopo succede che invece a Bologna nevica, come è successo 2 giorni fa, e quindi al piano, quindi non stiamo parlando di cime alte e quant'altro. Quindi è un fatto di prevenzione, uno dovrebbe cominciare a mettersi nell'ordine di idee di fissare questi appuntamenti non a ridosso dell'entrata in vigore dell'obbligo, per poi evidentemente c'è una pressione forte. Lei come sa, non siamo campioni di buonsenso, le incombenze sono tante, però mi consentite una battuta: è una delle poche scadenze di legge legge che in Italia non è soggetta a proroga, perché di solito, specialmente con quelle fiscali, si proroga spesso e volentieri. Ma in verità poi la legge la fa il meteo, per cui può capitare che ancora a novembre ci siano 20 gradi, può capitare che a marzo, in pieno periodo di vigenza delle ordinanze, ci siano 20 gradi, e poi magari il 16 aprile, cioè il giorno dopo, quello in cui avremmo dovuto rimettere le stive, si rimette a nevicare. Quindi con questo clima pazzo la verità è che non c'è legge che tenga, e il buon senso vero è quello veramente di guardare bene le condizioni del meteo in rapporto a dove si deve andare. E poi attenzione che i veicoli servono per muoversi, per cui in Italia le condizioni anche lo stesso giorno possono essere varie. Il motivo per cui l'industria ha pensato ai famosi pneumatici quattro stagioni, Fabio Bertolotti, che voi proprio non è che amiate all'impazzata, detto ciò sono comunque anche la soluzione e la risposta a questo clima impazzito, direi. Non è che noi non abbiamo dei pneumatici quattro stagioni, all season, multipurpose, quelli che vanno estivi che vanno bene in inverno, gli invernali che vanno bene in estate. No, in realtà da un punto di vista tecnico e giuridico non esiste la famiglia, non è classificata la famiglia degli all season o dei quattro stagioni. Cioè quello che fa fede è ciò che è scritto sul fianco del pneumatico. Se il pneumatico non ha riportato una marcatura che è un simbolo, un marchio M più S, Madden Snow, che ormai ho imparato a memoria, seguito fango e neve, seguito da un pittogramma alpino, cioè una montagna a tre picchi con un fiocco di neve al centro, se non c'è questo, allora è un pneumatico estivo, altrimenti è un pneumatico invernale. Poi gli all season dipende che cosa hanno, se hanno queste marcature o non le hanno, possono essere, diciamo, classificati nell'una o nell'altra, diciamo, categoria. Questo da un punto di vista tecnico, da un punto di vista giuridico. Molto, molto semplice, noi diamo sempre come indicazione, però da un punto di vista di sicurezza stradale, perché questo è l'aspetto più importante, se uno vuole viaggiare con la massima sicurezza deve impiegare gomme che sono idonee al periodo stagionale, gomme estive in estate, gomme invernali high performance in inverno. Le quattro stagioni, scrive un ascoltatore, secondo lui sono come il burro dopo 20.000 chilometri, hai voglia che tengano sul bagnato, ghiaccio o neve. Può darsi anche che il radioascoltatore abbia ragione, perché non sappiamo quale marca, perché non sono confrontabili proprio, cioè parlare di quattro stagioni non è una categoria merceologica e quindi non si è in grado di fare un confronto corretto. Ma questo può succedere. Allora siamo andati già un po' nel tecnico, mi viene da dire, cioè nelle marcature che dobbiamo trovare. Sempre sugli pneumatici compaiono queste lettere, numeri che sono un pochino da decifrare, dove c'è indicata ad esempio la velocità massima indicata che si può raggiungere con quella copertura e così via. E allora vi chiamerei in causa con il tuo permesso, Deborah, ma eventualmente anche ne senza. Ne hai facoltà, sai. Allora intanto mi metto il rimmel dallo specchietto retrovisore così impari. Allora intanto che siamo fermi al semaforo, io chiamo in causa Andrea da Bologna, perché ci chiede proprio un dettaglio su quello che si trova scritto sulla parte laterale dello pneumatico. Buongiorno Andrea. Buongiorno a voi. Ci dica. Io faccio l'autista di autobus, ma non per questo sono interessato a questo, però insomma mi è capitato di, su alcuni pneumatici, di trovare il codice DOT con la data e la settimana con cui è stato prodotto lo pneumatico. Invece su altre case, su altre marche, c'è il codice DOT ma non compare la data, che è molto importante, perché mi è capitato di montare gomme estive che non sapendo di questa cosa me ne hanno rifilate di quasi 4 anni. Certo. Non nuove, ecco. Allora per me Andrea, perché Bertolotti dice Bertolotti non è possibile che manchi. Ma allora, molto semplicemente, va chiarito che il marcaggio DOT, che è un acronimo per Department of Transportation, cioè il Ministero dei Trasporti americano, non è un obbligo nell'Unione Europea e quindi tantomeno in Italia, mentre è un obbligo la dichiarazione, l'indicazione della data di fabbricazione. quindi è impossibile che su un pneumatico non sia riportata la data di ma fabbricazione. Dove la troviamo? Sempre stampigliata sulla parte laterale? È stampigliata sul fianco del pneumatico e sono riportate non solo le indicazioni della data di fabbricazione, generalmente, che ne so, 41-17 vuol dire la 41esima settimana dell'anno 2017, per fare un esempio. Quindi uno ha modo di stabilire quando è stato prodotto quindi quel pneumatico. Quindi non c'è scritto 12 novembre 2004? No, ecco, c'è una settimana e c'è un anno. Chiaro. Poi ci sono altre informazioni, sempre con delle cifre piuttosto che delle lettere che sono accompagnate a questa scritta, che consentono anche di risalire a chi ha prodotto il pneumatico, anche se c'è la marca, e il luogo dove è stato prodotto, il lotto di produzione. Quindi il pneumatico ha in queste scritte tutta una serie di informazioni utili per poi eventualmente intervenire laddove ci fossero dei problemi. E questo ci serve anche per evitare magari qualche acquisto incauto, che era il caso che segnalava Andrea. Certo. Attenzione però che la data di fabbricazione non ha nulla a che vedere con la durata del pneumatico, perché non è disciplinata e non si può determinare a priori la durata di un pneumatico. Perché dipenderà, immagino, anche dall'abitudine di guida. Beh, innanzitutto anche come viene immagazzinato. Esatto, come viene immagazzinato. Quindi è una durata in servizio, cioè quando è montato o a magazzino, in quali condizioni, come viene usato, su quale veicolo viene montato. Quindi è impossibile predeterminare una data di scadenza. Quindi la data invece di fabbricazione è importante, è un elemento obbligatorio a termine di legge. Tra l'altro ci scrivono proprio a proposito di durata, per quanti anni sono efficaci le gomme termiche? Perché già al secondo anno noto che hanno caratteristiche, immagino, le termiche di resa. Sono quelle invernali, sì, no? Sì, le gomme sì, proprio termiche da neve, allora qualcuno le chiama termiche da neve, invernali, lamellari, sono termini equivalenti per andare a definire il pneumatico invernale. Possiamo dire che non c'è una durata massima di anni, non è una cosa a scadenza come un alimento. Non c'è né una durata massima né una durata minima. Bisogna guardare lo spessore del battistrada. Lo spessore del battistrada è quello che fa fede, il limite di legge è 1,6 mm, cioè sotto il 1,6 mm le gomme invernali o estive, non cambia assolutamente, sono fuori legge. Poi ci sono alcuni paesi, non l'Italia, dove hanno introdotto un limite di usura più alto per i pneumatici invernali, vale a dire la Slovenia ha un limite di usura 4 mm. Cosa significa? Non significa che a 4 mm il pneumatico deve essere buttato, no. Il pneumatico non è più considerato idoneo in quel paese, ma è un qualcosa che è arbitrario, perché non, da un punto di vista tecnico noi non abbiamo questi elementi, non abbiamo di questi elementi, quindi il discorso è: in Italia il limite di usura è 1,6 mm per l'estivo, per l'invernale, e fino a quello spessore il pneumatico deve essere efficiente sia per l'estate che per l'inverno. Maurizio, volevi intervenire su questo punto? Sì, su questo punto c'è stata anche di recente una dichiarazione di un costruttore molto importante che addirittura ha sconfessato il limite di 4 mm, cioè hanno detto che arrivare a 1,6, cosa che anche noi informalmente abbiamo sempre sconsigliato, beh, loro dicono che perlomeno con i loro prodotti si può arrivare tranquillamente a 1,6, e questo comporta anche dei benefici non solo ovviamente per la tasca ma anche per l'ambiente, perché insomma la produzione di gomme ha un dopo suo impatto ambientale. Dopo ne parliamo di questo aspetto collegato all'ambiente, però non è consigliabile, cioè quello che viene dato dalla norma italiana, e non è solo quella norma italiana, europea. Dalla norma europea come limite massimo di utilizzo, vuol dire che siamo veramente arrivati a una soglia critica soprattutto per chi poi guida, per chi è a bordo di quella vettura. Certo, poi se parliamo di pneumatico invernale non è solo una questione legata allo spessore del battistrada, ma è alla composizione del battistrada, cioè la mescola con cui è realizzato questo battistrada, che è proprio, perché qualcuno li chiama termicamente, perché reagisce termicamente, cioè allo scendere della temperatura anziché irrigidirsi, certo, rimane morbida, e quindi i due effetti, il disegno del battistrada che è tutto lamellato che serve per intrappolare la neve, unitamente al contenuto tecnico della mescola che rimane morbida, certo, anche quando fa freddo, garantiscono una migliore aderenza e quindi una migliore sicurezza. Allora, intanto ovviamente il nostro WhatsApp è tempestato di segnalazioni, richieste e commenti da parte dei nostri ascoltatori. Ne prendo uno per sintetizzare, Fabio Bertolotti, il pensiero di molti ascoltatori. E molti sostengono che c'è un vero e proprio business intorno all'obbligo del cambio, e un ascoltatore dice: mi ricorda molto quello dei controlli delle caldaie. Allora qua, senza prendere necessariamente le difese di nessuno, è chiaro che se uno deve fare il cambio degli pneumatici e l'auto la usa per 2 chilometri a settimana e la tiene costantemente parcheggiata, magari è chiaro che non si sente particolarmente sensibilizzato a farlo, e ovvio non incorre magari in nessun particolare pericolo. Detto questo, per chi viaggia molto, altro che business del cambio della gomma, direi che ne va della sicurezza personale, della famiglia e di tutti quelli che circolano sulle strade, perché poi per uno anche dei pedoni, per uno imprudente e non serio, usurata, ecco, è una gomma che frena peggio, che frena più lungo. Anche un po' tranquillizzare l'ascoltatore. Allora, la quantità di pneumatici che viene montata al ricambio ogni anno in Italia è, da diversi e svariati anni, sempre costante attorno ai 30 milioni quindi di pezzi. Sono... quello che è avvenuto non è un aumento del numero di pneumatici che vengono montati, ma è un cambiamento del mix, così si dice, tra pneumatici estivi e pneumatici invernali, che ovviamente sono molto aumentati in relazione sia a un concetto di sicurezza stradale, che dovrebbe essere quello a guidare la scelta di tutti nel montare queste gomme, ma anche grazie a queste ordinanze che hanno reso di fatto obbligatorio fare una scelta invernali o catene a bordo. Mm-hmm. Allora, adesso siamo arrivati esattamente alle 11:30 e quindi, Deborah, ti concediamo di tornare invece nel mondo che ti è più familiare. Quello degli ombretti? No, quello dei mercati finanziari, Deborah, su Deborah, le borse. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Due di denari. Va bene, abbiamo lasciato caro Marco Lombardi, cara Giulia Lauricella che ci assistete, noi vi ringraziamo, naturalmente vi ringraziamo come tantissimo. Come due badanti praticamente, sì, poveretti. Certamente, però ogni tanto le vostre scelte musicali ci lasciano un pochino perplessi. In cosa ogni hai modo, da ridire con questo rock stradale? Ma io sarei stato un pochino più pacato sulla scelta di questo tema. Comunque ne approfitto anche, guarda, volevo ringraziare, ciao, oltre che Paolo Corleoni che rende possibile tutto miracolo. Tutto questo, esatto. Per cui le nostre voci arrivano anche a chi magari sta guidando. Esatto. No, cosa che tra l'altro in Groenlandia potrebbe essere, perché dall'estero ci ascoltano in ma tantissimi. Ma lì avranno pneumatici da neve, mi immagino di sì. Voglio sperare per loro. Ma anche Dina Cicciarella, perché Dina è colei che belli, invece rende possibile che ci si possa vedere su, guarda, Facebook. La saluto direttamente dalla nostra magica telecamera. Allora, così grazie almeno per la Dina, il lavoro che quotidianamente fa e vi consente di seguire questa trasmissione e anche altre trasmissioni, naturalmente. Ma questa pensiamo che sia nei vostri cuori, dal social network, esatto, più diffuso. La modestia non è nostra. Questa mattina, detto ciò, torniamo all'argomento che stavamo bellamente affrontando. Cambio di stagione non dell'armadio, ma delle gomme dell'auto. Quello l'abbiamo già fatto, per la verità, almeno io sono una che si prepara con largo anticipo. Con quello delle gomme sono un po' più a ridosso della scadenza. Ma tu hai quello dell'armadio hai cambiato gli pneumatici? Non ancora. Non ecco. E io devo, perché faccio un sacco di strada. Allora, devo ti ha già spiegato Maurizio Caprino, il collega del Sole 24 Ore che è con noi stamattina, che se devi affrontare viaggi in tratti autostradali dove c'è l'obbligo dello pneumatico invernale, è meglio che tu ti munisca di catene da neve, perlomeno se vuoi evitare la sanzione. Non ti ho chiesto, Maurizio, c'è anche decurtazione dei punti della patente? Esatto. No, buona notizia. No, non c'è, però voglio dire, al di là di tutto, la vera sanzione è quella di rimanere impantanati e di bloccare tutto il traffico, perché poi immaginate una situazione di bufera come quella del lunedì scorso, immaginate se una pattuglia di agenti sta presso a uno per uno a sanzionare. Purtroppo, ecco, la verità è che quelli sono episodi concitati in cui spesso poi vediamo entra in campo anche la protezione civile, quindi sono problemi abbastanza seri, perché poi noi spesso ci dimentichiamo che tutto questo circo che qualcuno definisce business, qualcun altro dice è giusto, eccetera, ma nasce da un episodio specifico che era nel 2015, una grande nevicata che fece arrabbiare tantissimo l'allora capo della protezione civile Guido Bertolaso, che insomma disse addirittura pubblicamente che certa gente preposta a gestire il traffico letteralmente dormiva. Allora effettivamente il sistema aveva più di qualche buco e siccome poi un paese che si definisce, amerebbe definirsi civile, non può permettersi queste cose anche solo per il danno all'economia che si fa, allora abbiamo messo su tutto questo sistema piuttosto complesso che chiaramente non può trovare una soluzione a ogni problema, però insomma intanto qualcosa è stato fatto. Allora, intanto vediamo se abbiamo qualche ascoltatore in diretta. Non ancora, vi invitiamo ad intervenire all'800 24 00 24. Molti ascoltatori invece sono molto rigorosi sulla questione della sicurezza e ottemperano a questa scadenza con grande rigore, perché come segnala Piero Damerate, per esempio, le gomme invecchiano anche. Fabio Bertolotti, per cui c'è anche questo aspetto da considerare. Ma non riesco a capire cosa significhi le gomme invecchiano, nel senso che no, lui dice come diventano legnose dopo un po', dopo tanti chilometri. Non è così, cioè questo diciamo. Io l'avevo preso come un messaggio comune, invito alla sensibilizzazione su questo argomento. Allora, in passato, in un lontano passato, se parliamo con gente che ha una settantina d'anni. In passato c'era qualcuno che sosteneva che le gomme dovessero essere messe in cantina per farle stagionare, per farle durare di più. Era una stupidaggine allora. Ah, proprio come i prosciutti. Come è una altrettanta stupidaggine andare a cercare oggi la gomma fresca come se fosse l'uovo di giornata. Non era un buon senso e non aveva nessuna valenza tecnica né l'una né l'altra. Poi, come tutti i prodotti, anche le gomme si deteriorano col tempo, però questo deterioramento avviene progressivamente e certamente in tempi ben diversi da quello che si presume essere il termine di usura del pneumatico stesso. Allora, il treno di gomme invernali lo sta detenendo e curando con grande cura il mio gommista di fiducia Fabio Bertolotti, che le conserva dall'anno scorso e adesso non vede l'ora di vedermi per fare il cambio. Quanto spendo per questa operazione? Dipende dal soggetto, ma è un'operazione che in linea di massima costa circa 10 euro a gomma. Monta 10 euro, 15 euro al massimo, quindi 40, 50 euro, ma del resto ci sono state anche delle indagini fatte in questo senso che confermano. Poi va messo in conto il costo della custodia, cioè sostituendo il treno di frequente, almeno a me capita di frequente, ma anche ad altri automobilisti, che venga caricato però un costo di custodia, cioè le gomme vengono tenute lì, io non me le porto in cantina come il vino e quindi le lascio volentieri al gommista. Allora, il costo di custodia è un costo aggiuntivo che può non esserci, perché posso metterle tranquillamente in un luogo buio se ne ho lo spazio, insomma in cantina, nel box, ma in un luogo buio, non un luogo buio, lo sottolineo. Oppure le posso lasciare dal mio rivenditore, alcuni offrono il servizio gratuitamente, altri fanno pagare un quid, ma attenzione, quel quid non è tanto per la custodia quanto per la copertura assicurativa, perché giustamente se io lascio al gommista le mie gomme che valgono, che ne so, 500 euro per dire una cifra, ovviamente pretendo di riaverle esattamente nelle stesse condizioni e non può so pensare che ci sia qualcuno che per dire mi dica vabbè, ha preso fuoco dove le avevo e quindi chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto. No, non è così. Quindi quel quid è molto spesso o quasi sempre legato a una polizza assicurativa. Certo. Allora, molti ascoltatori ritornano sulle gomme Four Season. Abbiamo già esaurito l'argomento, direi, nella prima parte della trasmissione. Se volete e potete, andate a recuperarvela. Fabio Bertolotti ci ha portato, Mauro, non so se la noti, la carta d'identità degli pneumatici. Sì. Mi pare un documento molto interessante che non vediamo l'ora di compilare. Lo mostrerei anche in favore. Infatti, di allora webcam. Lo prendo io, così lo avvicino un po'. Eccoci qua, facciamo questo passaggio. Che cosa abbiamo su questo documento? Ma allora, innanzitutto, non è un documento nuovissimo, cioè, esiste da lo rilascia il comune, insomma, con la foto, la nostra foto. È un documento facoltativo, è un'iniziativa da noi promossa con il patrocinio del Ministero dei Trasporti. L'obiettivo è molto semplice, è quello di regolare un acquisto che viene fatto importante. Quindi, quando io vado ad acquistare delle gomme, devo richiedere, questo è un consiglio, ma speriamo che in futuro diventi un obbligo, devo richiedere la carta d'identità del pneumatico al mio gommista, che mi deve rilasciare gratuitamente. Se questo non viene fatto, zero problemi. Vado sul sito www.pneumaticisottocontrollo.it e provvedo a compilarla autonomamente, ma chiedo al gommista, perché quello sì che è obbligato a fare, il rilascio dello scontrino fiscale, che pinzo insieme a questa carta d'identità, e così ho un documento fiscalmente valido che consente anche di far valere la mia garanzia legale. Cioè, il pneumatico è un bene di consumo al pari di un asciugacapelli. Uh-huh. E tutti noi sappiamo che la garanzia è 24 mesi per il phon, sì, ma anche per il pneumatico. E quindi potrò far valere i miei diritti e una garanzia legale, cioè una garanzia di buon funzionamento, nell'arco dei 24 mesi successivi alla data d'acquisto. Se non ho lo scontrino, io non ho modo di far decorrere la garanzia, quindi tutte quelle che poi si dice essere, e ce ne sono, e come di vendite in nero, praticamente azzerano l'aspetto della garanzia, ecco, che ciascuno. Infatti. Quindi non sono dei buoni affari andare ad acquistare gomme che senza avere una prova d'acquisto, c'è cioè uno scontrino fiscale qua. Insomma, c'è un po' di evasione anche qua, da quello che abbiamo capito. È un tema che affrontiamo tra poco, ma direi che ora siamo pertinenti. È il momento. Quando se non oggi? Traffico! Due di denari. No, ma noi non facevamo so la rima alle colonie, Cooper, ma no, e noi la tapperemo con la cici in gomma, dicevamo. Con la cici in gomma? Le Marche, il chewing gum si chiama così, ma come vuoi? Parli? Ma faceva rima, scusa, e quindi cici in gomma. Allora, l'unica cosa che salvo di questo è gomma, perché stiamo parlando degli pneumatici. Ne approfitto per dire, guardate, è corretto anche, non è corretto, è attestato, ed è molto attestato anche l'uso, ohimè, sì, dell'altro articolo, quindi il pneumatico anziché lo pneumatico. Allora, la grammatica direbbe lo, però siccome poi nel suono l'uso è lo, è il maestro migliore, dicevano i linguisti, e allora accettiamo entrambi. Esatto, chiamateli come volete, l'importante è che li cambiate quando è necessario farlo. Senti un po', visto che parlavamo di smaltimenti, evasione fiscale, il termine eccetera, che ti piace tanto, te la vuoi vedere tu con il prossimo ospite? Ah, certamente. Allora, chiamo subito in causa Antonio Pergolizzi, che è coordinatore nazionale dell'Osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente e curatore anche della piattaforma cambiopulito.it. Buongiorno Pergolizzi. Buongiorno a voi. Buongiorno. Sì, tra l'altro è all'estero, quindi lo sentiamo male, dovremmo proprio andare dritti al messaggio che vuole lanciare. Sì, grazie. Dove sta, tra l'altro? Posso chiederglielo? Ci facciamo gli affari suoi. Edimburgo. Ma ci è andato in macchina? No, non credo. No, ci sono andato in aereo, però sempre di rifiuti. Guardi, sì. Il collegamento è improponibile. Io direi che adesso i ragazzi glielo facciamo rifare. Avete potuto testare anche voi che non va bene. Sì, proviamo, esatto. Proviamo a richiamare. Proviamo allora a per Golizzi. Sì. Stavamo parlando di fisco prima, perché nella parte, come si dice, non collegata, stavamo così un po' immaginando con Bertolotti, beh, forse si potrebbe anche agevolare fiscalmente lo pneumatico o il pneumatico, diciamo. Ma a volte credo che si ottenga molto di più anziché punendo i soggetti, ma semplicemente premiando, incentivando chi è virtuoso. Ora, molto semplicemente, sappiamo che ma ormai da tempo l'abbiamo noi stessi denunciato ad altre alle autorità competenti, che esistono delle forme di evasione ulteriormente aggravate dal fenomeno internet, quindi da quello che può essere, diciamo, la rete e quant'altro, che per carità è uno dei tanti sistemi per poter acquistare delle gomme, e nessuno vuole mettere un accento negativo sulla rete. Noi mettiamo sempre un accento negativo su chi non rispetta le regole, se non paga l'IVA, se non paga il contributo ambientale, se compra merce non sicura o non conforme o non omologata. Noi abbiamo scoperto nel corso del tempo, grazie anche alle attività con le forze dell'ordine, che c'erano pneumatici non omologati che costituivano un problema per la sicurezza. Però il problema si potrebbe risolvere in una maniera molto semplice, e cioè consentendo, al pari del rifacimento di una doccia, dell'acquisto di un divano. Oggi pare che, anzi dall'anno prossimo, saranno anche i vasi da fiori o quant'altro, gli impianti di irrigazione. Beh, ma visto che c'è questo tipo di orientamento, mi parrebbe logico andare a consentire a quelli che sono, diciamo, delle spese importanti per una qualsiasi famiglia, cioè quella della manutenzione del veicolo, e soprattutto per quelli che sono quei dispositivi come i pneumatici, che hanno un elemento forte per la sicurezza stradale: pneumatici, freni, cinture di sicurezza, per fare tre esempi che sono poi nel codice della strada normati e che sono proprio il legislatore ha stabilito 5 volte tanto la sanzione di riferimento, proprio perché si rende conto che sono effettivamente un problema per la sicurezza. Perché no dare la possibilità di mettere in deduzione la spesa? Facciamo l'assalto alla diligenza, Mauro, visto che la legge di bilancio... Chiediamo anche questo sconto. Esatto. La legge di bilancio, come sai, sono questi due pentoloni che stanno bollendo al Senato. Tra l'altro il decreto legge fiscale adesso è in aula, quindi insomma abbiamo alzato il fuoco sotto, ci sono tante belle novità, anche lo scudo per i transfrontalieri, un piccolo scudo fiscale. Scusa Maurizio Caprino, le calze da neve, ci scrivono. Allora, per chi non lo sapesse, Deborah mi guardi smarrita, sono delle coperture di una specie di tessuto, non, per dire non così. Un collante in microfibra, ecco, da no, quello che no, capisco. Però l'idea è un po' quella lì, tu metti la calzina alla gomma, alla gomma. Sì, metti la calzina allo pneumatico e così dovrebbe adesso avere Bertolotti presa. Si alza e se ne va, di fronte a questa. No, io, è che ce lo, e lo capirei anche. Ce lo chiedono gli ascoltatori, ci chiedono soprattutto, la cosa importante è, ma sono omologate, cioè è legale montare? Questa è una vicenda molto italiana, nel senso che non sono ammesse come sostitute delle gomme invernali oppure delle catene, tranne un modello, perché l'importatore di questo modello ha fatto causa prima al TAR del Lazio, adesso siamo al Consiglio di Stato. In attesa che il Consiglio di Stato decida su questa vicenda molto intricata, il Ministero dell'Interno ha emanato una circolare secondo cui che consiglia alle pattuglie di non sanzionare chi ha quel determinato tipo di calze. Dal punto di vista tecnico, la questione è questa: fondamentalmente le calze funzionano piuttosto bene, devo dire, cioè riescono a togliere d'impaccio in situazione di neve, sono molto più facili da montare rispetto alle catene, vanno bene anche in pendenza su veicoli abbastanza pesanti, cose che possono creare criticità anche con altri cosiddetti mezzi antistrucciolevoli, quindi catene, gomme invernali. Il problema è che, essendo di tessuto, c'è una contestazione su quanto durano. E soprattutto quanto durano su tratti in galleria, perché in galleria non nevica, quindi abradi direttamente l'asfalto e la calza si usura di più. questo fabbricante ha dimostrato che le sue calze hanno un'autonomia sufficiente a fare un viaggio, però insomma il Consiglio di Stato poi ci dirà la sua. Infatti abbiamo recuperato Antonio Pergolizzi, coordinatore nazionale dell'Osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente, curatore della piattaforma cambiopulito.it. Cosa ci racconta sugli pneumatici, Pergolizzi? Sì, raccontiamo insomma di un mondo che è cambiato negli ultimi anni, soprattutto dal 2011, quando è entrato in vigore il principio della responsabilità estesa del produttore, che ha di fatto prosciugato sacchi di illegalità che nella gestione dei pneumatici fuori uso era veramente molto molto ingombrante, stava causando dei gravi danni ambientali e sociali. Con questo di questo principio dal 2011 abbiamo visto progressivamente a fiori sia a prosciugarsi direi proprio l'illegalità nella gestione di FFU, però allo stesso tempo le tecniche di operatori illegali si sono raffinate negli ultimi anni. Stiamo assistendo invece a fenomeni abbastanza significativi di acquisti, di compravendita internazionale, soprattutto attraverso piattaforme online, di pneumatici nuovi con operazioni commerciali in totale evasione di IVA e di contributo ambientale, che si trasformano in extra target, cioè significa pneumatici fuori uso, quindi sì, veri e propri rifiuti, che si accumulano presso i gommisti, gli operatori finali, che superano i target previsti dai produttori all'inizio di anno e che stanno creando notevoli disagi. Per in qualche modo contrastare questo fenomeno abbiamo insieme ai principali stakeholder, i principali tre consorzi, Cupneus, Greentire ed Ecotire, insieme a Confartigianato, CNA, Federpneus e AIRS, abbiamo messo in piedi una piattaforma di whistleblowing che ci sta dando degli ottimi risultati. Benissimo. Pergolizzi, purtroppo non riusciamo a sentirla oltre perché per recuperare il collegamento lo abbiamo bruciato quasi tutto, ma insomma per chi volesse saperne di più vada sulla piattaforma cambiopulito.it e magari in un'altra occasione avremo modo di riparlarne. Mauro. Grazie a tutti i nostri ospiti, Maurizio Caprino, Fabio Bertolotti. Ci rivediamo alla prossima stagione. Sì, e invece Duidena ritorna domani. Buona giornata a tutti.